Un buongiorno a Martina Testa e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, salve a tutti. Allora, partiamo un po' dal principio per parlare di Ragazza, Donna, Altro di Bernardino Evaristo. Ti volevo chiedere come e perché hai scelto di tradurre questo libro prima ancora che fosse vincitore del Booker Prize, tra l'altro. Pochi giorni prima, in realtà, insomma, però sono arrivata in tempo sì, prima del premio. È un libro di cui mi sono immediatamente innamorata nel leggerlo, perché ha una visione del mondo che io cerco tantissimo nella letteratura di oggi senza tanto trovarla, che è plurale, presenta tanti diversi punti di vista, tanti personaggi, c'è una coralità, c'è una assoluta mancanza di dogmaticità in qualche maniera. E quindi questo libro traboccante di storie, di vita, di contraddizioni, aveva un'atmosfera che mi ha proprio coinvolto un sacco. Era oltretutto uno spaccato sociale molto intelligente, non parlava soltanto di individui, parlava di un sistema, e anche questo mi interessa proporre come prospettiva. E terza cosa, aveva una forma inconsueta, perché per me la letteratura non si dà senza che ci sia anche una ricerca stilistica, linguistica, formale nel come si dicono le cose. Quindi il fatto che sia quasi un libro, diciamo, in versi, se vogliamo, perché poi chi lo leggerà vedrà che manca la punteggiatura normale, non è rispettata, ci sono delle fine di paragrafo senza punti, insomma, in una maniera particolarmente strana rispetto alla prosa normale, e anche quell'aspetto lì mi ha fatto dire questo è un libro speciale. Parliamo proprio di questa scelta della scrittrice di utilizzare questa modalità di scrittura molto fluida, quasi teatrale, come appunto dicevi anche tu. Che cosa ha comportato per te nella traduzione? Beh, lei impone in qualche maniera un certo ritmo al suo testo, perché spezza i paragrafi andando a capo, appunto, come se fosse un po' una poesia, e quindi c'è una partitura, una musica molto decisa. E ovviamente in italiano, diciamo, cercavo di rispettare un po' questo ritmo. Se lei aveva scritto una riga, un verso, un blocchetto di testo molto breve, non potevo farlo diventare una cosa troppo più lunga, insomma, doveva avere una sua musica in qualche maniera corrispondente anche in italiano, dove non sempre è facile, perché traducendo dall'inglese all'italiano, l'italiano è sempre più lungo, diciamo, dell'inglese. L'inglese è una lingua proprio strutturalmente più compatta, invece in italiano tocca sempre aggiungere preposizioni, congiunzioni, subordinate, così, e quindi il ritmo dei due testi non è mai esattamente coincidente, però, insomma, dovevo tenere presente. Ho tenuto presente più che in altre traduzioni che ho fatto l'aspetto ritmico, fonico, insomma, del suono di queste frasi. In questo caso la tua figura, quella della traduttrice, è molto importante, ma perché secondo te viene sempre presa poco in considerazione nel dibattito sulla letteratura? Non mi sembra che venga presa poco in considerazione, forse io lo vedo dal mio punto di vista, insomma, molto Certo. interno all'editoria, e mi sembra che negli ultimi 20 anni, da che ho cominciato a lavorare, ci sia molto più la percezione del traduttore come, insomma, figura importante all'interno della produzione editoriale. Vengo invitata a parlare a gruppi di lettura, in librerie, così, a proprio come traduttrice. Esiste un sindacato dei traduttori. Questa figura, secondo me, rispetto a 20-30 anni fa, si è assolutamente professionalizzata, è diventata più visibile, insomma, forse anche contrattualmente a volte è più forte, perché 20 anni fa, secondo me, si facevano meno contratti legittimi, legali, giusti, corretti per i traduttori. Quindi, non lo so, vista dal mio punto di vista, la categoria del traduttore non è sotto rappresenta, cioè, insomma, se ne parla, è riconosciuta. Certo, no, assolutamente. Ti chiedevo proprio questo per indagare un po' meglio come viene vista la figura della traduttrice e del traduttore. Senti, come ultima domanda ti vorrei chiedere come racconteresti questo libro a chi magari non l'ha ancora letto? Come posso dire? È così, è complicato, perché poi è difficile fare tipo un pitch di 30 secondi su un libro complesso, ma è un romanzo che racconta le storie di 12 donne nel Regno Unito, diciamo negli ultimi forse 100 anni di storia del Regno Unito. Li racconta con una specie di controstoria in cui sono presentate le storie di queste 12 donne, che hanno tutte la caratteristica di essere, diciamo, non bianche in qualche maniera. Quindi una lente un po' diversa per vedere la società di un paese occidentale, le storie di queste donne. Poi ognuna di queste ha una sua particolarità a livello di sentimenti, di esperienze, di gusti, di storie familiari e così, e il tutto compone una sorta di arazzo, diciamo, di una società occidentale contemporanea. Io, Martina, ti ringrazio e complimenti, insomma, per il tuo lavoro. Grazie a voi, grazie a te. Ciao.